later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la produzione non accenna a diminuire, Kappa e Drago camminano sul guano. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Schifo. Che schifo. I piccioni, oltre a essere maleducati e prepotenti, sono degli sporcaccioni, lasciamelo dire. Sporcaccioni. Sporcaccioni. Ma quando ci sono loro si cammina nel guano. Vabbè, anche prima, insomma, non è che fosse però, tanto diverso, però il guano del piccione è vero, corrode il cemento, corrode l'asfalto, corrode tutto. Non c'è niente di più inquinante del guano, lo Ma cosa dobbiamo fare per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo argomento che veramente mi preme, Drago? Io voglio fare una campagna, qualcosa. Vuoi aprire una campagna? Apriamo una campagna. Sì. Ma quale opinione pubblica, quale campagna, quale aprire? La fabbrica di polli è ormai un luogo di conquista, non te ne sei accorto? Chi la vuole se la prende. Non c'è più un potere centrale e il caos regna sovrano. Mi ricorda certe donne questa cosa. Nessuno protesta perché sono tutti polli qua dentro. Mai visto un pollo che si fa le sue ragioni? Uè, ma state parlando di me? Ciao pollo in sbattimento. No, beh, tu sei l'eccezione che conferma la regola. Sì, sei l'unico che può protestare. Infatti. Che gli altri tuoi colleghi sono degli zombie senza volontà, almeno tu. Lo so. E che è dura stare in mezzo a tutti questi ciula senza vento, eh? E loro subiscono tutto. Allora. Non c'è niente da fare, sono abituati a subire e subiscono. Deve essere una tara genetica. Sì, il pollo determinista, fantastico. Adesso la tara genetica. Qui se non protesto io stanno tutti zitti, e aspettano la morte. Ma pollo, ma cerca di usare tutta la tua influenza per far fare le pulizie sul pavimento almeno. Perché fa schifo. Quale influenza? Ma che non c'ho mica l'influenza io, Ma sì, va bene, lo sappiamo, Polo, lo sappiamo. Senso lo sappiamo, Drago? Hai mai visto una cartella clinica del pollo in sbattimento? Sì, lo so, però stai zitto, dai, siete poi sbraitati. Non vi fidate, Ma no, ma è l'influenza in un altro senso. Ma vi sembro malato? Ma no. Ma guardate che piume. Sì, belle. E guardate la cresta, Bella, sì, anche quella. E il becco? Vabbè. No, dico, lo vedete sto becco, no? Sì, E vi sembra il becco di un pollo malato? Ma scusa, l'aviaria non è che fa cadere il becco, ti fa morire e basta. Io infatti sono vivo e vegeto. Sì, ma poi dopo improvvisamente ti viene l'aviaria e muori, capito? Out of the blue, the bird flu. Allora, protesti o non protesti, dai, becco o non becco. Protesta. Ma qui non c'è nessuno con cui protestare. I piccioni, insomma. Allora, l'amministratore delegato è sparito. E quindi qui adesso comandano i piccioni. Appunto. Non c'è niente da fare. Poi i piccioni hanno il becco e tu hai paura, di la verità. Io quelli col becco li lascio stare. Ah, che coraggio, coraggio. Sì. Ma pensa per te, va. Ma cosa? Come cosa? A te se un piccione ti vola vicino, ti nascondi come un bambino, Ma perché mi fanno schifo, non certo per la paura, discorsi. Dicono tutti così. Shh, dai, state zitti, che lì c'è di nuovo il presidente del sindacato Piccioni. Ah, allora. La giunta ha stabilito, mangime avvelenato, per tutta la nazione cresce la tensione. Un piccione, dobbiamo trovare la soluzione. Sei sterilizzato, a spese dello Stato, non servi proprio a niente, caghi solo sulla gente. E poi sei un piccione, Sei solo un piccione. La cacciagione. Oh, fabbrica di polli. A nome del sindacato dei piccioni pensionati, del chiaro e le provviste di mangime stanno diventando scarse. Noi stiamo aumentando di numero perché siamo un popolo allegro e vitale. E fare l'amore ci piace ancora davvero, mica come a voi polli condannati a morte. E dunque chiediamo a gran voce l'aumento salariale a parità di impegno, e cioè zero impegno. Chiaro? Non sappiamo come dovete agire per ottenere questo, ma è questo che vi chiediamo. Aumento salariale a parità di impegno, e cioè zero impegno. Portate una piccioncina che mi diverto un poco. Voglio una zebra, una cavalla, una leonessa. Voglio cambiare specie, sono stufo della stessa. Voglio una mucca piena di mammelle, una capretta con le gambette snelle. Voglio una gatta, una civetta, una pecorina, una maiala e basta con la solita gallina. Ufficialmente di essere incrociato, chiedo ufficialmente di essere geneticamente modificato, voglio far l'amore con tutte le specie del creato, chiedo di essere adottato, chiedo di essere allattato, chiedo di essere insultato e chiedo di essere frustato, voglio essere un pollo in un mondo di sesso beato, voglio il mio sesso dei polli, polli, fortissimamente polli. Sei pronto? No, ma Drago, non è il caso, no, dai, ma quando, è il caso non sembra mai il caso, K, e si rischia sempre di non agire per tempo. A quindi, me non dai. Piace prendere a randellate i piccioni, cosa vuoi che ti dica? Ma preferisci morire nel guano? Ma non è bello uccidere altre creature, Drago, cosa vuol dire il guano? Ma chi ha parlato di uccidere? Le randellate? Vabbè, ma le randellate serviranno per farci rispettare, faremo loro paura, basta menare dei colpi nel mucchio, sono sempre lì in tanti, intorno al becchime, arriviamo lì e cominciamo a randellare, non ci sarà bisogno di mirare alla testa. Sì, anche perché hai mai provato ad acchiappare un piccione? Sì. Ti corre sempre a portata di mano, però un pelo più in là. È vero, sì. Secondo me hanno una specie di sensore che li fa muovere sempre alla stessa distanza dall'inseguitore, hai capito? Una specie di fotocellula. E quindi mi sa che le bastonate sulla testa ce le possiamo anche scordare. Vabbè, bastonate sulla testa o no, tu hai la tua mazza da baseball. La reggi? Sì. Quanto pesa? Ma è una Valstrona Big da 34 pollici e pesa un chilo. Un chilo, è interamente lavorata in Italia. Bene. Il legno è frassino francese di prima qualità. Bene. Su eBay la trovi a partire da 42 euro. Accidenti, 42 euro per un bastone. Un bastone. Una mazza da baseball è una mazza da baseball, vabbè, però. Vedi, questa è regolamentare. 106 centimetri di lunghezza, diametro di 7 centimetri, bella equilibrata. Io invece qua, vedi, ho la gamba del tavolo dell'ufficio pesi e misure. Sai dove pesano i polli in arrivo, dove fanno la cresta sulla tara? Sì. Ecco lì. C'era un tavolo traballante con delle belle gambe massicce, però, e me ne sono presa una. Lunghezza 80 centimetri, diametro direi... Ma occhio, 10 centimetri, peso, siamo lì, un chilo tipo la tua. Su eBay però non c'era, non l'ho pagata niente. Per forza, hai distrutto un tavolo. Beh. Il tavolo costa più della mazza su eBay. Ah, già. Ma il tavolo non era mica mio. Peggio ancora. Come peggio ancora? Non l'ho pagato, come fa a essere peggio ancora? Tu la mazza l'hai pagata? Sì che l'ho pagata, è anche cara. Aia! Aia! Fa male? Sì, mi sembra di stare in un film. Il film di quello col trauma cranico. Però funziona. Aia! Che cosa succederà adesso? Riuscirà il bastonamento coatto dei piccioni pensionati? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo dimenticabile allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce. This telegram was on the air every night at the same hour. Good night, ladies and gentlemen, good night.